2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci pronti anche per questo fine settimana pasquale. Questa è la puntata del 19 aprile 2014. Benvenuti o bentornati, questa è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Oggi abbiamo sostanzialmente due macro temi nella nostra puntata. Tra poco parleremo e partiremo da un film, cosa strana, quasi inedita, ma visto che è Pasqua ci concediamo anche questo lusso. Non parleremo di Transcendence, ma partiremo da lì per parlare di una serie di cose. E poi parleremo anche della diffusione della banda larga, con alcune considerazioni guardando la situazione in Lombardia. Faremo alcune considerazioni che riguardano soprattutto le aziende, ma non solo le aziende. Iniziamo con alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Secondo il rapporto sull'e-commerce presentato da Casaleggio e Associati, il commercio elettronico in Italia ha rallentato la sua corsa nel 2013 con una crescita per la prima volta ad una sola cifra, cioè più 6%. Il valore complessivo del mercato è stimato in 22,3 miliardi di euro. Il 53% delle aziende di e-commerce italiane opera anche sui mercati esteri, con un fatturato che pesa in media il 29% sul totale delle vendite online. Il mobile, confermano anche da Casaleggio e Associati, è il fattore chiave nella crescita del commercio elettronico. Digital News. Dopo l'annuncio di Vodafone che dal 29 aprile lancerà la prima soluzione di pagamento con NFC su smartphone, ne abbiamo parlato nella puntata della scorsa settimana, anche Telecom Italia ha annunciato che entro l'estate arriverà un prodotto analogo, si chiamerà Team Wallet, quindi un borsellino elettronico digitale nello smartphone, e all'interno la prima carta che si potrà virtualizzare sarà la Team Smart Pay, una carta prepagata sviluppata in collaborazione con Visa Europe e Intesa San Paolo. Digital News. Facebook ha annunciato Nearby Friends, una nuova funzione che fra qualche settimana verrà lanciata per il momento solo negli Stati Uniti. Permetterà di trovare gli amici nelle vicinanze vedendoli sulla mappa. Un servizio simile a Latitude di Google, che poi è stato disattivato perché non aveva fatto un grande successo, e naturalmente ognuno sarà libero di decidere se farsi trovare oppure no, cioè se farsi vedere sulla mappa, perché magari uno va in una zona e non vuole far saperlo a tutti. Digital News. Mentre Apache Software Foundation ha annunciato che OpenOffice ha superato i 100 milioni di download in meno di 2 anni, Microsoft ha lanciato questa settimana una nuova versione di Office 365. Si chiama Personal, che si aggiunge alla versione Home e alla versione Business. La nuova offerta cloud di Office, destinata al singolo utente, costa 69 euro all'anno oppure 7 euro al mese con una serie di servizi collegati. Adesso parliamo di alcune tecnologie che vedremo nei prossimi anni. Non tecnologie imminenti, potremmo dire così, ma sicuramente cose che cambieranno la nostra vita, il mondo in cui viviamo, in maniera molto forte. Prendiamo spunto da un film che è uscito in questi giorni nelle sale, che si intitola Transcendence, un film dove si raccontano alcune tecnologie, dove si descrivono alcune tecnologie che vedremo nei prossimi anni. Ci facciamo aiutare, anche perché è lui che mi ha suggerito questo tema, da David Orban, che è amministratore delegato di DotSub, ma soprattutto è advisor e docente alla Singularity University. David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Dunque, tu mi hai telefonato qualche settimana fa, ci siamo sentiti qualche settimana fa, e mi hai detto: guarda che c'è un film che sta per uscire che ci potrebbe dare il là per parlare di alcune cose. Io l'ho già visto questo film, e quindi potrebbero esserci alcuni spunti interessanti. Di cosa stiamo parlando, e soprattutto perché dici che in questo film ci sono alcuni spunti tecnologici interessanti? Assieme agli amici di Accelera e alla Singularity University abbiamo organizzato un'anteprima di questo film il 15 aprile a Milano, che è andata molto bene, ha avuto un grande successo, ha raccolto molte persone che vogliono occuparsi di questi temi. Il film naturalmente è un film hollywoodiano, e senza fare degli spoiler, naturalmente va tutto male, deve, se no il film non diverte attraverso i conflitti che rappresenta, e racconta in modo sorprendentemente accurato quelle che sono le frontiere della ricerca tecnologica. C'è uno scienziato che si occupa di intelligenza artificiale, di calcolo quantistico, di nanotecnologie e già questo si vede dal trailer, ad un certo punto viene attaccato dagli ecoterroristi e prima di morire compie con l'aiuto della sua ragazza un esperimento estremo, trasportando attraverso una scansione oggi ancora fantascientifica molto approfondita del proprio cervello l'intero stato di autocoscienza in un computer dove quindi si risveglia e poi appunto va tutto a catafascio. Cioè fa l'upload del proprio cervello. Il mind uploading è proprio il termine di questa ipotesi di lavoro che le nostre menti siano indipendenti dal substrato. La nostra mente gira sul nostro cervello come hardware, ma se capiamo come funziona in termini di programma, potrebbe altrettanto girare su un substrato diverso di silicio o di altri materiali. Questa è una prospettiva, possiamo dire, certamente lontana. Allora il punto è proprio questo. Queste tecnologie, così come ci siamo abituati attraverso la legge di Moore negli ultimi 40-50 anni, si sviluppano esponenzialmente. Partono lentamente e poi irrompono nella coscienza comune attraverso delle prestazioni e delle capacità che chi non le osservava non può rendersi conto quanto appunto rapidamente possano arrivare e diffondersi. Quindi è lontana questa possibilità sicuramente, però ci sono già persone che ci stanno lavorando attivamente, dove per esempio la tomografia funzionale del cervello che analizza e registra i meccanismi biologici ed elettromagnetici sottostanti il nostro cervello arriva a risoluzioni sempre migliori in termini spaziali e in termini temporali. Sì. Allora, ci siamo spinti forse un po' troppo in avanti, adesso facciamo un salto un po' più ravvicinato parlando di quello a cui tu hai accennato, cioè l'intelligenza artificiale. Questo è un tema di cui parliamo da tanti anni, si parla di intelligenza artificiale e probabilmente molti dei nostri ascoltatori potrebbero descrivere alcune delle cose che ci stanno attorno, che usiamo su internet, come una espressione dell'intelligenza artificiale. Definiamo questo ambito, poi raccontiamo quello che probabilmente entro pochi anni vedremo in maniera dirompente. E quando è nato il calcolo, la cibernetica degli anni 40 e 50, von Neumann, Enrico Fermi, Alan Turing e altri scienziati che lavoravano insieme desideravano già allora capire fin dove potevano spingere i computer nelle loro capacità di analizzare e risolvere i problemi. Negli anni 50, 60, 70, 80 si parlava di intelligenza artificiale in termini molto ben definiti e verticali. È stato famoso per esempio il match tra Kasparov e Deep Blue, dove il computer sì, per la prima volta ha battuto un campione mondiale in carica di scacchi. Oltre all'intelligenza artificiale specializzata, oggi si parla anche di intelligenza artificiale generale, che appunto è un sistema oggi ipotetico che non solo risolve un particolare problema, ma è in grado di analizzare ed affrontare un qualunque tipo di problema, eventualmente riprogrammandosi in modo da essere adatto a quello scopo. Quindi imparando. Imparando dall'ambiente, imparando attraverso l'autoanalisi, l'auto-osservazione e il miglioramento di se stesso, cose che noi attribuiamo alle capacità superiori umane di autocoscienza e a quel punto entra in gioco il classico test di Turing, cioè la domanda: come facciamo sapere se il computer è autocosciente? E la risposta è: di fatto non lo sappiamo, così come non lo sappiamo di uno dell'altro. Abbiamo l'esperienza per dirlo e così con i computer sì, arriveremo a capirlo man mano. Quindi oggi diciamo abbiamo già molti esempi di intelligenza artificiale specializzata. È così. Il passaggio che dobbiamo fare è quello di avere intelligenza artificiale distribuita ovunque. una capacità generale di affrontare problemi diversificati in modo da potergliene dare uno qualunque e sapendo che il sistema saprà adattarvisi. E quando negli anni 90 sono usciti i sistemi di dattatura, per esempio, e oggi li abbiamo nei nostri telefoni cellulari, questi erano all'avanguardia. Domani potremo eventualmente descrivere un problema molto complesso che oggi potrebbe sembrare irrisolvibile, come amministrare al meglio una città di 20 milioni di abitanti, e con l'aiuto dei computer sapremo risolvere dei problemi corrispondenti a questa classe di sfide che abbiamo davanti, così come l'ambiente che cambia, il cambiamento climatico, eccetera. Anche qui ti faccio la domanda, è una prospettiva molto distante da noi? Il consenso tra gli specialisti ha una sua curva di distribuzione. Se tu fai il sondaggio di chi se ne dovrebbe intendere, non sono tutti d'accordo, addirittura se ci sarà mai. Però è interessante perché ormai sono 20-30 anni che questa domanda glielo si rifà e continua a diminuire il numero di persone tra gli specialisti che rispondono mai e continua a diciamo accorciarsi o addensarsi la distribuzione, la distanza tra le opinioni e ci sono molte persone che pensano che entro una ventina d'anni avremo questi sistemi fra di noi. Quindi diciamo che la prospettiva non è ravvicinata. Se oggi non cominciamo a chiederci quali sono le conseguenze di condividere il pianeta, non con un'altra, ma potenzialmente milioni di specie intelligenti, saremo spazzati via. Cioè perché tu dici i computer potrebbero trasformarsi in specie viventi quasi? Cioè a che tipo di specie fai riferimento? La specie umana ha avuto l'illusione, così rappresentata anche graficamente, di essere in cima alla catena evolutiva. E abbiamo trattato il resto del pianeta in modo sicuramente poco rispettoso. L'abbiamo sfruttato, abbiamo sterminato altre specie animali e tuttora riteniamo di poter fare quello che vogliamo. Nel momento in cui avremo davanti sistemi dove non saremo in grado di dire come reagiscono, perché saranno molto intelligenti, saranno anche molto potenti rispetto alle risorse o alle capacità che gli attribuiamo, dovremo trattarli con rispetto necessariamente. Una delle domande è se gli attribuiremo diritti autonomi. Oggi, per esempio, un aereo può decidere di fare delle manovre di emergenza. Abbiamo attribuito ai sistemi automatici di navigazione dell'aereo la capacità di dire no, io piuttosto di cascare faccio qualcosa di mia decisione. E in futuro sistemi che salvano possibilmente invece che 2-3 milioni di persone, altrettanto decideranno autonomamente. Quindi questo pone anche dei problemi di carattere etico e anche legale, perché bisognerà decidere quando, e questo è un problema che ci si sta ponendo ad esempio nella guida automatica degli autoveicoli, se l'automobile oppure l'aereo decide una determinata azione, chi è eventualmente il responsabile delle conseguenze? È un dilemma morale classico proprio delle scuole dove si studia questo tipo di pensiero. Se io, non necessariamente una macchina, se io invece di andare addosso ad uno scuolabus potenzialmente ferendo o uccidendo 20 bambini, decido di girare a destra e uccido un ciclista, ecco un dilemma morale. E come le macchine affrontano questo tipo di decisioni sarà una cosa fondamentale e importante di campo morale, come tu hai detto giustamente, anche in campo legale e anche in termini politici, di politica economica. Già oggi abbiamo visto 2 anni fa Foxconn, che assembla gli iPhone, ha avuto una serie di suicidi e il presidente di Foxconn ha installato una serie di reti per prevenire non tanto che la gente si buttasse, ma che si facesse male. Poi perché si buttavano rimaneva, sembra, irrisolto. Sì. Ma non solo, ha anche dichiarato che il suo obiettivo è di installare sulle catene di montaggio 1 o 2 milioni di robot in sostituzione degli esseri umani. E allora la tensione che c'è tra la possibilità di una diffusa disoccupazione tecnologica provocata dall'automazione sempre più intelligente e il desiderio naturalmente delle società di creare opportunità per i propri membri è un altro ambito che tocca questo argomento. Sì, questo è un argomento molto, oltre che interessante, che è molto importante. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprenderemo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco parleremo della diffusione della banda larga con alcuni spunti soprattutto dedicati alle aziende, alcune riflessioni anche dedicate alle aziende. Adesso stiamo parlando, prendendo spunto da Transcendence, che è un nuovo film appena uscito che parla anche di intelligenza artificiale, stiamo parlando di tecnologie, ma soprattutto di come anche dobbiamo prepararci all'impatto che alcune tecnologie avranno nei prossimi anni. Pensiamo ad esempio, come abbiamo detto poco fa con David Orban, l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale nell'automazione. Oggi già siamo abituati a molti processi produttivi automatizzati, ma ancora potremmo, direbbero alcuni esperti, non abbiamo visto nulla. Quando l'intelligenza artificiale diventerà molto più performante, molto più intelligente rispetto a quella di oggi, beh, potremmo virtualmente sostituire qualsiasi umano, e questo chiaramente creerà un problema molto molto grande. Del resto però difficilmente, anzi è impossibile fermare la tecnologia, David. Noi 10.000 anni fa abbiamo deciso di avviarci su una strada tecnologica. Da qualche milione di persone sul pianeta siamo passati a qualche miliardo di persone sul pianeta. Siamo liberi a rinunciare alla tecnologia fin tanto che decidiamo chi è 999 su 1000 che deve morire. Perché senza tecnologia non sapremmo come nutrire tutti gli altri. E quindi, anche andando avanti, la probabilità che ai nostri problemi la risposta sarà la tecnologia, dal mio punto di vista, è una probabilità altissima. Le invenzioni non si possono disinventare. Anche perché, in un mondo connesso come quello che abbiamo oggi, è sufficiente che un solo gruppo arrivi a qualche tipo di soluzione e tutti gli altri, con mezzi legali come prendere in licenza la loro invenzione, oppure copiandola, diffondono questa su tutto il pianeta con rapidità crescente. Sì, esatto. Questi scenari, queste evoluzioni che sono altamente probabili, poi vedremo quali saranno le dinamiche con le quali si svilupperanno, sono basate su alcune tecnologie, non so se definirle tecnologie, come ad esempio il calcolo quantistico. Senza farla troppo difficile, stiamo parlando di cosa? E in che rapporto è questa tecnologia con l'intelligenza artificiale? Non sappiamo esattamente qual è la soglia superata la quale i nostri computer saranno abbastanza potenti appunto per codificare sufficientemente il funzionamento di qualcosa di così complesso come il cervello umano. Ma la tradizionale legge di Moore, che permette da 50 anni a questa parte di raddoppiare la densità dei componenti dei transistor, sta arrivando ad un punto dove i fenomeni delle dimensioni piccolissime a livello di atomi, appunto i fenomeni quantistici, non possono più essere schermati. E invece di essere visti come qualcosa da eliminare, quando vengono abbracciati e sfruttati per effettuare calcoli ancora più potenti, ecco, quello è il regno del calcolo quantistico che necessariamente dovrà arrivare se vogliamo computer più potenti in futuro. Quindi la definizione finale è computer molto più potenti. Basati su principi radicalmente diversi da prima. Sì, sì. Senti, le nanotecnologie in questo caso, visto che nel film si fa riferimento anche all'uso di nanotecnologie, come entrano in questo scenario? La nostra manifattura tradizionale si basa su un assemblaggio macroscopico di pezzi di ferro, di pezzi di roccia, di vetro, di silicio, eccetera. La nanotecnologia invece, prendendo spunto da quella che è anche la capacità delle nostre cellule, dei nostri corpi, parte dal basso, da componenti atomici, per creare sistemi o invisibili a occhio nudo, come potrebbe essere un robot appunto nanotecnologico che nuota nelle nostre vene per pulirle dagli effetti della calcificazione, oppure addirittura corpi di dimensione macroscopica attraverso dei processi progressivi di assemblaggio dal basso. L'ultimo acronimo che adesso viene utilizzato è Atomic Precision Manufacturing, cioè manifattura a precisione atomica. Questo vuol dire che è una specie di addictive manufacturing, un po' come la stampa 3D, ma molto più in piccolo, con la possibilità di creare pezzi anche grandi? Con il piccolo trucco che con la stampa 3D la stampante è esterna all'oggetto che fabbrichi, mentre la nanotecnologia include stampante e oggetto al proprio interno in un'unica unità. Sì, anche in questo caso la domanda è: quanto vicini o lontani siamo da questa prospettiva? Molte di queste cose, intelligenza artificiale, calcolo quantistico, nanotecnologie ed altre tecnologie con la promessa enorme ma anche rischi, dipendono dai finanziamenti che ricevono. Negli Stati Uniti, per esempio, 10 anni fa, forse anche 15, c'è stata una National Nanotechnology Initiative, un'iniziativa nanotecnologica nazionale che ha dato 3 miliardi di dollari da distribuire nei vari centri di ricerca. Peccato che la persona a capo di quell'iniziativa fosse, per carità, un premio Nobel, ma un chimico che non credeva nella possibilità di questo autoassemblaggio. E quindi questi finanziamenti sono andati a, adesso io esagerando, arrogantemente dico, ricerca di tessuti che non si macchiassero. Quindi cose abbastanza poco utili. Cioè. E quindi la rapidità con cui queste cose arrivano dipende da quanto oculatamente e quali soldi vengono spesi. Gli investitori americani, che sono molto desiderosi di incentivare grandi cambiamenti, invece che la nuova app per gestire le fotografie o la messaggistica, come succede di questi tempi, come Draper Fisher Jurvetson, per esempio, che ha finanziato con centinaia di milioni di dollari iniziative di questo tipo, inclusa la società D-Wave di Vancouver, Canada, che ha costruito un computer quantistico comprato dalla NASA e comprato da Google, che hanno stabilito la Quantum AI Laboratory, quindi il laboratorio per l'intelligenza artificiale quantistica. Ecco, queste sono scommesse importanti che vanno nella direzione di accelerare questi sviluppi. Tutte queste cose le vediamo in qualche modo nel film Transcendence. Pronuncio bene il film? Allora, lo pronunci bene, tra l'altro la parola richiama un po' la filosofia del transumanesimo, che è la corrente filosofica che definisce l'uomo come l'entità che analizza e supera i propri limiti. Noi le nostre sfide le vediamo davanti e non c'è garanzia che le risolviamo, ma solo se le affrontiamo in modo deciso e chiaro, solo allora potremo avere una chance di superarli. Sì. Ecco, dicevo, tutte queste cose noi le vediamo nel film. Quello che ti ha stupito, mi sembra di aver capito quando ci siamo parlati la prima volta, e che poi ci ha fatto incontrare per fare questa chiacchierata, che effettivamente va un po' oltre ai temi di cui parliamo spesso a 2024, ti ha stupito il fatto che nel film fosse tutto molto rigoroso. Devo dire che ultimamente Hollywood ci ha stupito anche con Gravity, mentre un tempo magari si facevano alcune esagerazioni, alcune traduzioni cinematografiche magari un po' grossolane dell'uso della tecnologia, questo ti ha un po' stupito? Sì, indipendentemente dalla trama, e naturalmente io non sono un critico cinematografico, ma la validità della rappresentazione tecnologica poi proiettata in avanti è veramente elevata. Evidentemente i creatori del film hanno avuto consulenza molto precisa, c'è un cameo nel film molto interessante che magari alcuni degli ascoltatori ti manderanno un'email per confermare quale sia, e nella prossima puntata annuncerai se qualcuno l'ha beccato. Questo tipo di presa di coscienza da parte di Hollywood di come la tecnologia nel quotidiano delle persone stia giocando un ruolo fondamentale, penso che anche dal punto di vista alla fine marketing sia una cosa corretta e utile, altrimenti si distanzierebbero da un audience che vuole andare a vedere film che toccano le loro esigenze e i loro interessi. Se abbiamo tutti i cellulari, se comunichiamo tutti quanti via internet in video a banda larga, se conosciamo le macchine robotiche e vogliamo che arrivino al più presto, perlomeno io le vorrei subito, vogliamo quindi film che riconoscano queste tendenze. E da un certo punto di vista potremmo dire che è vero che in passato abbiamo visto film che hanno raccontato cose che ancora oggi non vediamo, soprattutto quelli legati al mondo dello spazio, perché andare nello spazio è ancora molto complicato, però in altri ambiti le intuizioni si sono avverate molto velocemente. Io ho visto recentemente un film di parecchi anni fa che raccontava tutto quello che noi oggi sappiamo della National Security Agency, e probabilmente quando questo film lo abbiamo, nemico pubblico il film, quando lo avevamo visto, molti potevano credere che fossero cose fantascientifiche. In realtà tutto questo sistema di controllo, che non fa solo National Security Agency ma anche tutte le altre intelligence in giro per il mondo, è una realtà oramai industrializzata e affidabile. Solo perché qualcuno è paranoide non vuol dire che non abbia ragione. Statisticamente parlando e generalizzando, molte previsioni possono avverarsi. È bravo colui, e ci sono istituti di ricerca che si occupano proprio di questo, che va oltre ad azzeccare statisticamente le cose, ma è affidabile nelle sue previsioni. Singularity University, Institute for the Future, e anche Accelera in Italia, che appunto assembla gli ex studenti e simpatizzanti della Singularity University, offrono delle analisi e dei metodi per decifrare il futuro che individui, aziende, istituti governativi in tutto il mondo impiegano per decisioni importanti attorno a noi. Bene, Davide, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te. E noi ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Bene, in questa puntata di 2024 riparliamo di banda larga. Come sapete, questo è un tema al quale teniamo molto. Diciamo spesso, ed è una delle nostre maggiori convinzioni, che è estremamente importante per il sistema paese diffondere i servizi in banda larga. Questo è un tema di cui si dibatte purtroppo troppo poco a livello nazionale, si discute molto di altre faccende che incidono molto poco sul nostro prodotto interno lordo, e noi diciamo invece, ma ci basiamo su esperienze di altri paesi, dati oggettivi verificati e verificabili, che invece la diffusione di servizi in banda larga e poi anche naturalmente dell'uso dei servizi in banda larga e quindi di internet favorisce uno sviluppo del prodotto interno lordo, favorisce lo sviluppo delle nostre imprese, la competitività delle nostre imprese. Saluto Mauro Fasano, che dirige una struttura all'interno della regione Lombardia che si occupa di reti, e tra queste reti ci sono anche quelle in banda larga. Benvenuto 2024. Grazie mille. Voi, e da qui partiamo, avete elaborato alcuni dati, e non vogliamo parlare naturalmente solo di dati e di numeri, ma che sono interessanti, ci hanno interessato, e per questo oggi siamo qui a discutere di questo tema. Allora, partiamo da quello che è stato fatto in regione, ma che è stato fatto anche in altre regioni, per cercare di contribuire allo sviluppo della banda larga. In Lombardia qualche anno fa, 4-5 anni fa, registravamo almeno 1 milione di cittadini privi di ADSL, quindi con il 56K, con il vecchio router. Sì. Ecco. In quel momento lì, quindi, un milione di cittadini che venivano definiti di serie B non avevano accesso a internet in modalità decente e veloce. Sì, su rete fissa, diciamo. C'erano delle alternative. Però, chiaro. Esattamente, su rete fissa. Questo, dal punto di vista tecnologico, dipendeva dal fatto che le centrali telefoniche non risultavano connesse al backbone da fibra ottica ed erano prive di elettronica. Quindi con l'intervento pubblico-privato, perché è stato un intervento pubblico-privato, abbiamo in situazioni di fallimento di mercato, cioè dove l'operatore telefonico non aveva convenienza a intervenire per scarsità appunto di linee a valle delle centrali telefoniche, finanziato un intervento. Avete speso quanto? Abbiamo speso di soldi pubblici 41 milioni di euro complessivamente, quindi con l'intervento privato di Telecom Italia 97 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una cifra, e questo è un altro punto che io vorrei sottolineare, tutto sommato bassa, cioè meno di 100 milioni. Io faccio sempre il paragone delle strade: con 100 milioni non so quanti chilometri di strada si possono fare e quanto questi chilometri possono incidere sul PIL. Zero. Che cosa, diciamo, visto che questa cosa è stata fatta anche in altre regioni, cioè l'abbattimento del digital divide in questa modalità nelle zone non raggiunte da DSL, poi è chiaro ed evidente che bisognerà fare ulteriori passi in avanti, però limitiamoci a questa. La situazione oggi qual è? Rispetto alla spesa si può spendere molto e si può spendere poco, nel senso che l'adozione di tecniche di scavo poco impattanti sia dal punto di vista dei lavori sia dal punto di vista dei costi ha consentito di contenerli. E anche la modalità, se vuoi, di tipo amministrativo, cioè noi non abbiamo mai voluto risparmiare un euro, nel senso che non era previsto nel nostro bando una restituzione di risorse da parte del vincitore del bando, ma un reimpiego e un riutilizzo di risorse per aumentare situazione la situazione attuale, e poi capiamo anche i numeri di cui poi vogliamo parlare. Abbattimento del digital divide, quando siamo arrivati? Noi siamo vicinissimi allo zero, abbiamo superato il 99,6% di copertura cittadini, il dato è rispetto alla cittadinanza. La popolazione, sì. Se fai 10 milioni di cittadini in Lombardia, significa che 40.000-35.000 cittadini restano in questo momento privi di connettività e sono assolutamente pochi. Benissimo, che cosa vi ha stupito e che cosa poi ci ha stupito anche noi? Ma sostanzialmente ci ha stupito una accesa richiesta prima dell'intervento ed una non così, diciamo, felice adesione e felice apertura di linee telefoniche in banda larga successivamente. In questo momento la copertura di linee vendute rispetto al totale che abbiamo fatto, insomma parliamo di quasi 300, più di 300.000 linee telefoniche attivabili, siamo al 17%, quindi gli abbonamenti attivati dai cittadini, imprese, tutto ciò che è a valle della DSL non arriva al 17%. Che è un dato da un certo punto di vista preoccupante, cioè voi dite sono stati fatti investimenti pubblici perché è necessario, questo lo ricordiamo, è comunque necessario, mi piace, visto che tu ti occupi di reti, sottolineare che stiamo parlando di una ulteriore rete, così come il pubblico deve portare la corrente elettrica, il gas, l'acqua, le fogne, deve portare internet, su questo siamo d'accordo. Io sono convintissimo che banda larga è infrastrutturazione primaria come l'acqua. Cioè, ecco, però questo dato come si spiega? Questo dato si spiega per un po' di pigrizia italica rispetto alla tecnologia, si spiega rispetto ad una probabilmente non felice strategia, probabilmente anche politica generale che ci interessa come nazione, come paese, insomma. Noi, questa è una delle cose di cui discutiamo spesso. Si dice banda larga serve, devono essere attivati i servizi. Questi servizi normalmente vengono richiesti alla pubblica amministrazione. Il servizio tipico è la sanità, no? La sanità o i servizi della pubblica amministrazione in realtà, a mio avviso, non sono tra virgolette bandivori, cioè non c'è bisogno di tutta questa banda larga per far viaggiare una ricetta elettronica o far viaggiare oggi è così. I servizi che richiedono banda in Italia non sono attivati come nel resto d'Europa e come nel resto del mondo, sono sostanzialmente IP Television, Games, insomma. Sì, al tuo fianco c'è Alvise Biffi, benvenuto a 2024, buongiorno. Buongiorno, grazie. Alvise Biffi è vicepresidente nazionale delle piccole industrie all'interno di Confindustria e presidente della piccola industria di Asso Lombarda. Abbiamo convocato Biffi per cercare di capire perché probabilmente all'interno di questa scarsa adesione e collegamento alla DSL in Lombardia, e prendiamo la Lombardia come esempio perché se il problema esiste nel territorio lombardo, dove le piccole e medie imprese sono molte, figuriamoci che cosa succede in altre regioni. Quindi da un certo punto di vista ci preoccupiamo, però chiedo a Biffi se dobbiamo preoccuparci, per quale motivo dobbiamo preoccuparci e che cosa è possibile fare dal vostro punto di vista per cercare di far capire alle aziende, anche piccole, che internet è fondamentale per lo sviluppo della competitività di cui si discute spesso. Ma allora, intanto bisogna dare un po' di contesto per capire magari meglio il dato, perché quando si parla per esempio di digital divide bisogna inserire oltre la parte tecnologica anche la parte culturale e di accesso come competenza del cittadino o dell'impresa a internet, perché comunque abbiamo una fascia d'età abbastanza avanzata in Italia e molti hanno proprio difficoltà ad approcciare la tecnologia, quindi bisogna superare anche questo digital divide lato cittadino. Lato impresa bisogna considerare che l'investimento per l'impresa non è tanto la banda, che comunque è fondamentale perché inciderà da qui al 2030, come dimostrano tutti gli studi, dall'1,5 ai 3 punti percentuali l'anno di crescita del PIL, averla disponibile, ma è tutto quello che ne consegue, perché a me è utile la banda larga nel momento in cui sono presente in modo importante, non con un sito semplice vetrina, ma con un sito volto all'e-commerce B2B, B2C, cioè per business tra imprese o business diretto al consumatore, piuttosto se all'interno della mia azienda mi strutturo portando in cloud il mio sistema informativo o rinforzando il mio data center con una serie di strumenti gestionali che efficientano la mia produttività, che io faccia prodotto o servizio e che mi permettono magari di raggiungere anche mercati internazionali, quindi investimenti anche linguistici nella mia comunicazione verso l'esterno. Il problema che io vedo nella scarsa adesione tempestiva a questa nuova disponibilità sta su tre motivi fondamentali. Il primo è una scarsità di fiducia in questo momento, in questa contingenza, da parte di chi fa impresa, che chiamato ad investire in un momento di stagnazione, di mercato interno bloccato e di anni di crisi pesanti, è molto incerto, aspetta dei segnali che gli diano la fiducia, che non è prendere la linea DSL, ma fare tutto quello che la linea DSL mi abilita a fare. Quindi sì, questo è il problema numero uno. Problema numero due è comunque una purtroppo storica lentezza nell'approcciare nuove tecnologie. Teniamo conto che, ahimè, le nostre imprese, lo dico facendo autocritica, come benchmark europee a livello di informatizzazione sono negli ultimi posti della classifica, quindi comunque storicamente abbiamo dei sistemi informativi poco sulla breccia dell'innovazione. L'investimento in tecnologia informatica in Italia è mediamente molto basso. E questo in effetti è un problema. Adesso ci fermiamo per un minuto, poi sentiremo anche il professor Francesco Sacco, al quale abbiamo domandato quali sono i vantaggi principali per un'azienda nell'essere connessa. A tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Stiamo parlando di un problema del nostro paese: le aziende che usano troppo poco internet, soprattutto le piccole e medie aziende. Siamo partiti da un dato, da una considerazione, laddove è stata portata banda larga, seppur banda larga di base, nelle zone periferiche, chiamiamole così, dove fino a poco tempo fa non c'era banda larga, e parliamo della regione Lombardia, ma l'abbiamo presa come esempio per una situazione che è abbastanza diffusa su tutto il territorio nazionale. La penetrazione dei collegamenti ad internet rimane molto bassa. Poi è vero, come dicono altri esperti, che ci sono sistemi alternativi wireless, soprattutto in zone di colline di montagna in Lombardia, nel nord Italia, ci sono stati sviluppi molto forti con tecnologie Hyperlan e WiMAX, e poi una parte si collega anche tramite telefonia mobile, ma la penetrazione dei collegamenti a internet rimane comunque troppo bassa. Allora, mentre preparavamo questa puntata, abbiamo detto, chiamiamo il professor Francesco Sacco, che ha fatto parte fino alla fine di marzo della task force sull'agenda digitale italiana, per farci dire da fonte autorevole, fonte neutrale, perché un imprenditore piccolo medio dovrebbe collegarsi alla banda larga. E giustamente il professore dice, ma è come chiedere perché è importante avere l'acqua in casa, una domanda che sembra banale, ma in realtà la risposta, se uno è abituato a utilizzare internet e ormai ne ha compresa pieno le potenzialità, è molto difficile da rispondere. Però gli abbiamo chiesto di condensare alcune riflessioni in un paio di minuti. Prima di tutti, tante cose online costano meno. Un'email, per esempio, costa infinitamente meno di un francobollo, un sito costa meno di un volantino aziendale. Le telefonate via internet non costano niente o sono così poco costose che non serve neanche pensarci. Il solo risparmio telefonico potrebbe giustificare l'abbonamento alla banda larga, soprattutto se si hanno dei clienti all'estero. Anche gli acquisti online sono molto più vantaggiosi, soprattutto se l'imprenditore sa già da solo quello che va cercando da comprare. La seconda ragione potrebbe essere che tante cose con la banda larga sono molto più facili. Innanzitutto trovare le informazioni. Online c'è tutto, o quasi. Bisogna fare un piccolo sforzo per cercarlo, ma Google non ha bisogno di libretto di istruzioni. Inoltre aggiornarsi l'imprenditore o aggiornare i propri dipendenti online costa molto meno, si fa in ufficio e si ha sempre la situazione sotto controllo. Inoltre, se ci vuole parlare non ci si può incontrare, oggi una videoconferenza non è poi così male se non ci sono alternative. La terza ragione è che tante cose con la banda larga richiedono molto meno tempo. Compilare il solito modulo che si trova in banca online, per esempio, è più veloce e fa risparmiare tutte le code. Inoltre, il conto online, il solito conto della banca ma utilizzato online, costa meno, semplicemente perché i banchieri vorrebbero vedere l'imprenditore solo per le cose più importanti. Quando l'imprenditore va in banca, fisicamente, prende tempo del personale e costa di più. Lo stesso vale per quanto riguarda la posta. Online, a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche durante le feste, si possono fare telegrammi raccomandati e si evitano le code. Io direi che l'ultima ragione, ma forse la più importante per avere la banda larga per un imprenditore, concretamente, che aiuta a fare meglio il proprio business. Ad esempio, si può semplificare la vita dei propri clienti, e i clienti spesso ringraziano calorosamente, con moduli online, cataloghi online, risposte a domande frequenti e tante altre piccole accortezze o piccole gentilezze al cliente. Inoltre serve a lavorare da casa quando si ha poco tempo per fare soprattutto quelle cose importanti che si lasciano indietro ma per necessità. E se servono nuovi clienti o serve farsi conoscere, online trovare clienti costa meno, l'investimento minimo che è necessario fare è il più basso in assoluto. Così, per farsi conoscere, Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter sono facili da usare, costano poco e raggiungono l'obiettivo in pieno. Ragioni per chi usa tutti i giorni internet, più ore al giorno, oramai io praticamente faccio quasi tutto quello che posso fare con internet, ragioni che sembrano lapalissiane, così chiare, ma evidentemente, vedendo i dati del nostro paese, non sono così chiare, e così ci perdiamo un sacco di opportunità e un sacco di prodotto interno lordo che sfuma così perché non ne comprendiamo la possibilità. Dunque, Mauro Fasano, si dice, lo si dice spesso e lo si diceva per le reti tradizionali, non ci si domanda prima di fare l'infrastruttura se ci sarà una domanda, si fa l'infrastruttura e la domanda arriverà. Si è fatto così nella costruzione delle autostrade, delle reti del gas, dell'acqua, eccetera, eccetera. Dovrebbe valere la stessa cosa per internet, anche se, vedendo i dati che voi ci avete portato, non è così chiaro. No, cosa pensi? Non è proprio così chiaro, ma è abilitante, nel senso che vale quella regola lì. Su tutti i testi sacri sulla teoria delle infrastrutturazioni delle reti, tu non puoi usare l'acqua se non c'è un tubo nel quale l'acqua passa. Questa cosa vale anche per e va fatto prima il tubo, prima va di fatto prima, se prima c'è il l'acqua, tubo nel sì, caso sì, della banda larga, sì, il corrugato, e poi sì, ci va messo dentro una fibra sì, ottica. E questa cosa, secondo me, non va chiesta, questa cosa va fatta, appunto. Cioè, tutte le volte esistono, guarda, delle norme che lo dicono da anni, norme nazionali, norme locali, regionali, che impongono ad esempio a tutti gli operatori che effettuano degli scavi, tu pensa al teleriscaldamento, pensa alle reti gas, alle reti elettriche, impongono i cosiddetti tunnel tecnologici, cioè bisognerebbe tutte le volte che qualcuno scassa la pavimentazione stradale per metterci sotto qualcosa nel sottosuolo, dovrebbe essere creata un'infrastruttura che non ospita solo quel lavoro lì, quindi una rete gas, una rete elettrica oppure una rete di tubi dell'acqua o della fognatura, ma dovrebbe, deve per legge ospitare tutte le tecnologie, si chiamano proprio tunnel tecnologici. Questo è un obbligo che l'Italia ha da anni. Viene rispettato? Mai, non viene rispettato mai. Perfetto. Cioè questa cosa non viene fatta, punto. Malgrado ci sia la legge, malgrado ci sia tutto, non viene fatta. Questa cosa non viene fatta perché? Perché è gravissimo. Sì, gravissimo. Lanciamo un messaggio ai comuni e alle piccole amministrazioni che, cioè, sperando che le grandi lo facciano o nemmeno le grandi. Non viene fatto mai. Perfetto. Viene fatto assolutamente mai. Questa cosa dovrebbe essere naturalmente coordinata in qualche modo. Coordinata da chi? Coordinata prima di tutto da un ufficio pubblico. Noi per esempio abbiamo in Lombardia introdotto l'obbligo della responsabilità dell'ufficio del sottosuolo, cioè chi coordina tutta la rete che passa nel sottosuolo, e abbiamo detto: cari comuni, organizzatevi, ci vuole un responsabile, ci vuole qualcuno che sappia che in quella strada lì sotto passano delle reti, e se c'è una manutenzione, se c'è uno scavo, cercate di renderlo, diciamo, quanto più fruibile possibile anche agli altri. Tuttavia, nonostante questi problemi, che sono comunque problemi seri e gravi, è dal tuo punto di vista oramai dato per recepito come data considerazione e convinzione, soprattutto dalla pubblica amministrazione, che si deve investire, poi vediamo dove magari, per portare banda larga sul territorio? Questa o ci cosa... sono ancora delle amministrazioni che non sono convinte, no, di questo? No, perché no. Se non sono convinte le amministrazioni, sono poco convinte le aziende, siamo spacciati. No, di questa cosa le amministrazioni sono convinte, io te ne parlo perché quando cerchiamo di individuare delle strategie comuni a livello nazionale, a livello anche degli enti locali, ormai ne parlano tutti, cioè non fosse altro per il fatto che i fondi comunitari prevedono che ci siano delle risorse che vanno orientate assolutamente a questo tipo di investimenti, e quindi il dirigente, il funzionario di qualsiasi pubblica amministrazione lo sa che ci sono delle risorse e sa che possono essere utilizzate in quel senso lì. Ci sono dei contatti costanti fra di noi, ci sono società pubbliche che sono dedicate esclusivamente a questo lavoro. Il Ministero dello Sviluppo Economico con Invitalia e in particolare con Infratelli Italia fa questo mestiere qua. Infratelli Italia, sì. Infrastruttura banda larga e banda ultralarga l'intero territorio nazionale, e si sostituisce anche a quelle amministrazioni locali che hanno un po' meno expertise, un po' meno sensibilità. Noi stessi abbiamo una convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con Infratel Italia. E le operazioni che abbiamo fatto non sono soltanto il bando di cui abbiamo parlato in precedenza, e con 100 milioni di euro di investimento quasi, sono anche altri 30 milioni di investimento, 35 milioni di investimento che abbiamo fatto con Infratel Italia per la cosiddetta fibra spenta, cioè quella fibra lì viene messa a disposizione in IRU con un affitto, diciamo, a tutti gli operatori che ne fanno richiesta in quanto fibra pubblica, quindi sì, scorre sotto le nostre strade anche fibra pubblica. Dove c'è la fibra, quindi banda ultra larga e magari in zone non come quelle che abbiamo descritto prima, fallimento di mercato, dove c'è solo la DSL, eccetera, eccetera, la penetrazione, cioè la risposta delle aziende o dei cittadini, è maggiore o siamo sempre agli stessi livelli? No, l'Italia è ultima in Europa come collegamenti in banda ultra larga. Cioè anche in Lombardia, laddove sì, sono sì, state no, fatte... L'Italia è ultima. Noi siamo ultimi in Europa sul grafico dei collegamenti in banda ultra larga. Dal vostro punto di vista, che cosa... Perché tu dicevi prima che non bastano i servizi della pubblica amministrazione per spingere l'utilizzo. Dal nostro punto di vista, io ritengo che ci sono, ripeto, alcuni servizi, alcuni usi della banda larga, della banda ultralarga, che necessitano assolutamente di infrastruttura. E sono in Europa, nel mondo funzionano due tipologie di servizi che poi sono, insomma, a portata di mano della gran parte della collettività, cioè l'IP television e il games. Cioè in Europa funziona così. Tutte le volte che c'è una televisione digitale, via cavo, prendi la Corea del Sud, prendi le regioni nord europee o le regioni molto evolute, diciamo, lì c'è una infrastrutturazione che è necessaria e non è sostituibile da nessuna tecnologia. Cioè voi dite i servizi attuali della pubblica amministrazione non richiedono così tanta banda oggi. Penso e spero che nel futuro invece anche la pubblica amministrazione si evolva e offra dei servizi per cui serve banda ultralarga. Sono due le abilitazioni, non è soltanto una questione di mandare un documento che richiede tanta banda e anche la frequenza di questo invio, cioè una ricetta elettronica oppure un altro servizio della pubblica amministrazione è un servizio che uno richiede una volta ogni tanto, si spera, no? Cioè non è un continuo scambio tra la pubblica amministrazione e le imprese e i cittadini. Quando mi serve la pubblica amministrazione io ne usufruisco e quindi potrò avere, oltre che una tubo abbastanza grande per far passare la TAC, dovrò avere anche una necessità di attivare questo servizio più volte nel tempo. La televisione, ogni giorno in Italia 30 milioni di cittadini accendono la televisione, tutti i santi giorni succede questa cosa. Sì. E io figli, anche la radio, sicuramente così, e con la radio digitale ci stiamo avvicinando anche al fatto che la radio diventerà bandivora anch'essa, no? La stessa cosa vale per i games. Io ho dei figli che se oggi non giocano online con i loro giochini al PC oppure alla Play oppure non so io, ma lo fanno tutti i giorni, io provo a limitarli un po' perché ci sono altri interessi da osservare, diciamo. Sì. Però sono le due cose che chiedono banda con una frequenza altissima. Pensa tutte le volte che guardi la sera il televisore e ti rendi conto che ci sono 30 milioni di italiani collegati. Biffi, per concludere, dal vostro punto di vista, chi deve spingere per affinché le aziende diventino più consapevoli? Voi avete detto facciamo evangelizzazione, eccetera. Pubblica amministrazione, mercato, chi deve spingere di più? Ma il mercato, nel senso che non c'è scelta. L'azienda deve abbracciare il digitale, le nuove tecnologie, perché come si passò dal tecnigrafo al CAD, uno può essere tradizionalista e restituire la tecnologia quanto vuole, ma finisce fuori mercato. Il problema della lentezza è data proprio dalla fiducia. Noi dobbiamo fare degli investimenti come imprese e in questo contesto manca la componente fondamentale che permette di fare questo investimento che dà lo slancio anche verso l'era dell'open innovation. Noi abbiamo un progetto che si chiama DotUp, come piccola media impresa, che fa integrare piccole aziende e startup proprio nella logica di sviluppare ulteriormente questa velocizzazione all'open innovation, recuperando il gap di ricerca tecnologica e la resistenza al cambiamento. Vorrei concludere con un messaggio che ho già sentito lanciare da Mauro Fasano, che mi sembra sicuramente molto efficace: la contrapposizione tra analogico e digitale, diciamo il troppo analogico che ancora abbiamo e il poco digitale che dovremmo cercare di spingere sempre di più. Noi abbiamo, se ti riferisci a questa idea che abbiamo lanciato un po' di tempo fa, pensiamo che una delle cose che possono un po' smuovere questo problema, che possono portare a delle soluzioni, è uno slogan che dice pochissimo, cioè il digitale deve essere gratuito e l'analogico deve essere a pagamento. Anzi, ancora di più, se vogliamo approfondire, l'analogico dovrebbe essere a pagamento e ripagare il digitale. Noi abbiamo fatto una piccola sperimentazione quando abbiamo affrontato proprio il problema e il progetto Digital Divide con Telecom Italia. Spesso Telecom Italia veniva e ci diceva: guarda, tutte le volte che attraversiamo un canale irriguo, un fosso d'acqua, un torrente, un fiume, la pubblica amministrazione, tra la pubblica amministrazione e la Regione Lombardia, ci chiede il pagamento del canone di pulizia idraulica. Si deve proprio, l'acqua è pubblica e quindi bisogna pagare questo canone. E tutte le volte quindi io prendo una parte delle risorse pubbliche per pagare la pubblica amministrazione con risorse pubbliche che incassa risorse pubbliche. È un po' un circolo vizioso, sì. Con permessistica, con una serie di perdite di tempo che no, è inutile che stare qua a descrivere. Allora abbiamo elaborato proprio una legge, abbiamo approvato una legge in Regione Lombardia che dice: tutte le volte che la fibra ottica attraversa un corso d'acqua, quell'attraversamento lì diventa a tutti i titoli gratuito. Questa cosa ha consentito quindi di non incassare una cifra, te lo posso assicurare, irrisoria, è stata quantificata in 500.000 euro all'anno di canoni di polizia idraulica sulla fibra ottica, e ha consentito quindi di sveltire e lavorare moltissimo su il lavoro e sull'abbattimento del divario digitale. Se tutti si orientano nel il digitale deve essere gratuito, mentre invece può essere ripagata quella perdita di 500.000 sì. euro. Questo è chiaro, però non molto facile da comprendere. Se volessimo lato servizi esemplificare questo concetto, che cosa significa? Ma lato servizi, io se un comune mi manda a casa una certificazione qualsiasi e me la manda online in posta elettronica, te la mando gratis. Se invece vieni al mio sportello e mi stai chiedendo una certificazione su carta perché qualcun altro la vuole su carta, te la faccio pagare. Significa così. Bene, io ringrazio Mauro Fasano per essere stato con noi in questa puntata di 2024. Grazie e a presto. Grazie. Ringrazio anche Alvise Biffi per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie, buona giornata. Adesso noi, come sempre, diamo un'occhiata radiofonica, diciamo così, a quello che troveremo domani, cioè domenica, all'interno di Nova il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore. Questa settimana abbiamo il piacere di ospitare Luca Tremolada. Luca, allora, ciao e soprattutto che cosa troveremo domani su Nova? Allora, noi ci siamo domandati che cosa mettiamo a Pasqua, perché poi il 20 è Pasqua. Cosa mettiamo indosso o cosa mettiamo o cosa sulla mettiamo tavola? Sulla carta. Cosa ah, mettiamo sulla carta? Sulla ah, ok. E siccome abbiamo detto, ma noi i droni li abbiamo già messi. Sì. Allora, abbiamo il grafene l'avete già dato. Il grafene abbiamo già dato. Copyright, ci sarebbe tanto da dire. Sì. Poi magari. Bravo. Però, insomma, abbiamo deciso di fare un tema un po' più leggero, la programmazione ai bambini. Coder Dojo, i ragazzini che cominciano bello. A 7 anni, bellissimo, abbiamo scoperto un mondo. Programmazione, l'Italia... ricordiamo gli ascoltatori, stiamo parlando di programmazione al computer. Informatica. Per cui insomma noi ci siamo, abbiamo studiato questo alfabeto per i bambini. Bamme, mettete i bambini davanti a un computer, ci sono dei linguaggi che consentono di aumentare la creatività dei piccini e tutto funziona alla meraviglia. I linguaggi informatici sono maturi. Quindi, come ha detto il presidente Obama, non videogiocate, fate il videogioco, cioè programmate, compilate il videogioco. Infatti c'è nel pezzo di apertura, chiamiamola la cover, c'è questa citazione di Barack Obama, niente bravissimo. Un po' di meno. Il paginone centrale. Nanomedicina. Nanomedicina. Ah. Partiamo dalla nanoparticella che si unisce ad altri materiali e produce delle terapie. Per cui uno guardandosi il paginone capisce quanto sta diventando importante il mondo dell'ultra piccolo. Bene, grazie Luca, buon lavoro e buona Pasqua. Buona Pasqua. E a questo punto noi chiudiamo questa puntata di 2024, questa è la nostra versione podcast, vi ringraziamo per averci ascoltato in streaming o aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana, auguriamo a tutti buone festività pasquali, buone vacanze a chi fa i ponti e quindi sta per un certo periodo in vacanza. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024.